America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da Washington. Mario Platero, sono ancora nella capitale americana, come vi dicevo, per respirare un po' l'aria pesante della capitale pervasa dagli scandali politici. Ecco, in tutto questo c'è stato un piccolo brivido ieri a New York, poco prima di pranzo a Times Square, nel cuore della città. Un'auto ha investito 22 persone, ne ha uccisa una. Grande paura, un replay di Nizza, di Berlino. Beh, no, per fortuna era un incidente. Richard Royas, il conducente 26enne a bordo dell'auto, aveva un passato di guida in stato di ebbrezza, è stato arrestato. Ecco, qui a Washington invece sul piano della cronaca hanno dominato ieri certe dichiarazioni di Trump sugli scandali. Queste dichiarazioni sono avvenute in conferenza stampa col presidente della Colombia Juan Santos, che era in visita a Washington. Sentiamo. Well, I respect the move, but the entire thing has been a witch hunt and I think it divides the country. I think we have a very divided country because of that and many other things. Ecco, parte a gamba tesa subito Donald Trump, dice: la decisione di nominare un procuratore speciale per le indagini sul Russia Gate, ve lo ricordo, è stato nominato l'altro giorno Robert Mueller, ex capo della FBI. Ecco, questa decisione, dice Trump, fa male al paese, è una cosa molto molto negativa, mostra un paese diviso. Ecco, questo è il commento di Trump. Ha aggiunto che si tratta di una caccia alle streghe, ha detto Trump, e ha anche negato qualunque collusione con la Russia. Non c'è stato nulla tra me, la mia campagna elettorale e la Russia. La polemica, le curiosità, le illazioni continuano, ma oggi guardiamo in avanti e parliamo del debutto internazionale di Donald Trump, perché questa sera, già questa sera, il presidente lascerà Washington per il primo suo viaggio internazionale, un viaggio importante per lui dal punto di vista dell'immagine. Domani, prima tappa in Arabia Saudita. Saudi Arabia is the custodian of the two holiest sites in Islam, and it is there that we will begin to construct a new foundation of cooperation and support with our Muslim allies. Ecco perché è molto importante questo viaggio e questa prima tappa, perché in qualche modo Donald Trump vuole significare che per lui il Medio Oriente è il primo dei problemi che vuole risolvere e assolutamente la missione chiave della sua amministrazione, per due ragioni. La prima riguarda la lotta al terrorismo e la necessità, la sua promessa elettorale, di debellare ISIS. La seconda perché vuole rilanciare il processo di pace in Medio Oriente, cioè il processo di pace fra israeliani e palestinesi. E dunque, arrivando in Arabia Saudita, arrivando in un paese arabo, vuole dare un messaggio molto chiaro. Vuole anche dare un altro messaggio Donald Trump, e cioè vuole dire: attenzione, molti di voi hanno pensato che per il semplice fatto di aver emesso degli ordini esecutivi che bandivano alcuni paesi islamici dal poter venire facilmente negli Stati Uniti, io ero contro l'Islam. Non lo sono affatto. Io sono un amico dell'Islam, sono un amico del mondo arabo, sono un amico dell'Arabia Saudita, un nostro alleato fedele che era stato in qualche modo trascurato dall'amministrazione Obama. Dunque questa prima tappa sul piano simbolico ha dei significati molto importanti, ma anche perché in Arabia Saudita ci saranno due incontri importanti. Ci sarà un incontro intanto di natura multilaterale con i paesi del Golfo per studiare insieme quelle che possono essere certe strategie per arginare l'avanzata dell'Iran, ma soprattutto ci sarà un incontro con 24 o 25, ancora il numero preciso non lo conosciamo, leader, presidenti, capi di Stato e di governo di paesi islamici fuori dal mondo arabo. Arriveranno dall'Asia e da altre regioni per poter dialogare con Donald Trump e poi poter esplorare come insieme la parte buona dell'Islam potrà sopprimere la parte cattiva, quella cioè del terrorismo. President Trump, thank you for the truly warm hospitality you and Melania have shown me, my wife Sarah. I deeply value your friendship. To me, to the state of Israel. Seconda tappa, Israele. Vi ho fatto ascoltare questa registrazione dell'incontro fra Bibi Netanyahu e Donald Trump. I due, erano amiconi, grandi pacche sulle spalle, grandi abbracci. Netanyahu era assolutamente felicissimo della vittoria di Donald Trump, e come sappiamo non andava molto d'accordo con Barack Obama, e soprattutto era felicissimo delle promesse elettorali di Donald Trump, che avrebbe trasferito l'ambasciata americana a Gerusalemme, che avrebbe chiuso con i palestinesi. Dopodiché le cose sono leggermente cambiate, perché Donald Trump non soltanto ha ricevuto anche Abu Mazen a Washington, ma nel corso del suo viaggio in Israele si recherà a Betlemme in Palestina per un incontro proprio con Abu Mazen. Ecco, questa cosa non è piaciuta agli israeliani. Si rendono conto che Donald Trump forse sta virando lungo la strada politica americana più tradizionalista, quella che vuole, come dire, accontentare ambo le parti, vuole cercare di essere imparziale. L'Iglesia nos invita a riavvivar el don que se nos ha obsequiado para no dejar dormido como algo del pasado. Ecco, qui è Papa Francesco che fa la messa al confine messicano. Donald Trump si infuriò, disse che il Papa cercava in qualche modo di intrufolarsi nelle elezioni degli Stati Uniti d'America. Il Papa gli rispose per le rime, i due non si capivano, non si parlavano e insomma certamente non si piacevano. A questo punto, dopo la tappa in Arabia Saudita, in Israele, dopo la visita in Palestina, Donald Trump andrà a vedere non solo il nostro Presidente della Repubblica Mattarella, ma il Papa, Papa Francesco. I due riprenderanno un dialogo che si era spezzato appunto allora, e non c'è dubbio che c'è un elemento religioso che alla fine emerge, perché sono le tre grandi religioni monoteistiche che in qualche modo emergono, come dicevo prima, da questo viaggio di Donald Trump: la religione musulmana, la religione ebraica e naturalmente la religione cristiana. Sono le tre grandi religioni che sono nate in questa regione che oggi resta densa di tensioni, di preoccupazioni di ogni genere. L'incontro con il Papa sarà importante, farà un po' da chiusura di questa sua missione, che punta a riequilibrare un pochino i rapporti degli Stati Uniti nella regione, soprattutto, questo prima non ve l'ho detto, ma soprattutto isolando molto di più l'Iran, che era stato invece portato molto più in palma di mano dall'amministrazione di Barack Obama. Ecco, detto questo, non credo che ci saranno alcune delle promesse elettorali che saranno rispettate da Donald Trump nei confronti dell'Iran. Per esempio, Donald Trump aveva detto: aboliremo l'accordo per il disarmo nucleare che era stato fatto da Barack Obama. Ecco, oggi Donald Trump si accorge che quell'accordo forse ha una ragione di esistere e dunque cercherà di navigare queste acque difficili, cercherà di recuperare dal punto di vista dell'immagine e di dimostrare agli americani a casa che tutte le polemiche su dichiarazioni scomposte ai russi, su richieste che avrebbe fatto a Comey, appartengono a un dibattito molto ristretto nel Beltway della capitale americana, nella circonvallazione, nel contesto del Parlamento e della lotta politica all'interno degli Stati Uniti, ma non ai grandi scenari internazionali che Donald Trump cerca di affrontare con la leadership del capo di Stato. Da Washington è tutto. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a lunedì. Goodbye and get going!